Vangelo di San Luca, capitolo decimo. Or, dopo queste cose, il Signore designò altri 70 discepoli e li mandò a due dinanzi a sé in ogni città e luogo dove egli stesso era per andare. E diceva loro, «Ben è la messe grande, ma gli operai son pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe. Andate, ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate né borsa né sacca né calzari e non salutate alcuno per via. In qualunque casa sarete entrati, dite prima, pace a questa casa. E se v'è quivi alcun figliuolo di pace, la vostra pace riposerà su di lui, se no ella tornerà a voi. Or dimorate in quella stessa casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno della sua mercede. Non passate di casa in casa, e in qualunque città sarete entrati, se vi ricevono, mangiate di ciò che vi sarà messo innanzi, guarite gli infermi che saranno in essa e dite loro, il regno di Dio si è avvicinato a voi. Ma in qualunque città sarete entrati, se non vi ricevono, uscite sulle piazze e dite, perfino la polvere della vostra città si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro voi. Sappiate tuttavia questo, che il regno di Dio si è avvicinato a voi. Io vi dico che in quel giorno la sorte di Sodoma sarà più tollerabile della sorte di quella città. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se Tiro e in Sidone fossero state fatte le opere potenti compite fra voi, già anticamente si sarebbero ravvedute, prendendo il cilicio e sedendo nella cenere. E però nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, o Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No, tu sarai abbassata fino nell'Ades. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi sprezza voi, sprezza me. Chi sprezza me, sprezza colui che mi ha mandato». Or i 70 tornarono con allegrezza dicendo, «Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome». Ed egli disse loro, «Io mirava Satana cader dal cielo a guisa di folgore. Ecco, io v'ho data la podestà di calcar serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Pure non vi rallegrate, perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi, perché i vostri nomi sono scritti nei cieli». E in quella stessa ora Gesù giubilò per lo Spirito Santo e disse, «Io ti rendo lode, o Padre Signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, o Padre, perché così ti è piaciuto». Ogni cosa m'è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce chi è il figliuolo se non il Padre, né chi è il Padre se non il figliuolo, e colui al quale il figliuolo voglia rivelarlo. E rivoltosi ai suoi discepoli disse loro in disparte, «Beati gli occhi che vedono le cose che voi vedete, poiché vi dico che molti profeti e re han bramato di vedere le cose che voi vedete, e non le hanno vedute, e di udire le cose che voi udite, e non le hanno udite». Ed ecco, un certo dottore della legge si levò per metterlo alla prova, e gli disse, «Maestro, che dovrò fare per ereditare la vita eterna?» Ed egli disse, «Nella legge, che sta scritto? Come leggi?» E colui rispondendo disse, «Ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, e con tutta la forza tua, e con tutta la mente tua, e il tuo prossimo, come te stesso». E Gesù gli disse, «Tu hai risposto rettamente, fa questo e vivrai». Ma colui, volendo giustificarsi, disse a Gesù, «E chi è il mio prossimo?» Gesù replicando disse, «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, e si imbatté in ladroni, i quali spogliatolo e feritolo se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Or per caso, un sacerdote scendeva per quella stessa via, e veduto colui passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita giunto a quel luogo e vedutolo passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio, giunse presso a lui e vedutolo ne ebbe pietà e accostatosi fasciò le sue piaghe, versandovi sopra dell'olio e del vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo menò ad un albergo e si prese cura di lui. E il giorno dopo tratti fuori 2 denari, li diede all'oste e gli disse: «Prenditi cura di lui, e tutto ciò che spenderai di più, quando tornerò in su, te lo renderò». Quale di questi 3 ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? E quello rispose: «Colui che gli usò misericordia». E Gesù gli disse: «Va e fai tu il simigliante». Or mentre essi erano in cammino, egli entrò in un villaggio, e una certa donna per nome Maria lo ricevette in casa sua. Ella aveva una sorella chiamata Maria, la quale, postasi a sedere ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Ma Maria era affaccendata intorno a molti servigi, e venne e disse: «Signore, non ti importa che mia sorella m'abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore rispondendo le disse: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti inquieti di molte cose, ma di una cosa sola fa bisogno. E Maria ha scelto la buona parte, che non le sarà tolta».